Sono le ore 10 e 19 minuti di lunedì 1 aprile 2024 e stamattina mi imbatto in un articolo di Arianna Caserta, che è una ricercatrice, insomma, un'esperta di filmmaking, che scrive per Link, un bell'articolo che parla della fine delle persone, fondamentalmente fine della fascinazione per l'interattività, no? Che lei ricostruisce come un movimento che ha origini fondamentalmente politiche, addirittura agli anni 60, quando le persone cercano di rovesciare le narrazioni imposte dall'alto con tutta una serie di pratiche partecipative, di cui progressivamente anche il consumo dei media subisce le conseguenze, no? Quindi poi chiaramente dietro c'è il pensiero di Adorno, Horkheimer, Marcuse, ci puoi mettere quello che vuoi, all'origine dell'elogio dell'attività. Insomma, questo articolo approda a una tesi che sarebbe appunto quella dell'interpassività, e finisce per essere l'articolo stesso un elogio della passività, o meglio di una riconversione di tutta l'industria del visual, quindi compreso il mondo del cinema, di cui evidentemente lei fa parte come ricercatrice, che avrebbe saputo sconfiggere i falsi miti della partecipazione. Articolo molto interessante, perché ci pone di fronte a problemi nuovi. Adesso poi cercherò anche di postarlo nel thread di Telegram di Pendolini. Però un articolo a volte un po' confuso, cioè per esempio non, in tutta l'argomentazione non si capisce mai quando si sta parlando di svolte generate dall'industria e quando di comportamenti che sorgono da pratiche sociali, quindi dal basso, quindi fondamentalmente indipendenti rispetto alle scelte dell'industria, cioè quando l'industria si ritrova a dover inseguire trend comportamentali e quando invece li induce. Perché per esempio, ecco, un'altra cosa che è un po' confusa nell'articolo è tutto ciò che noi restituiamo per esempio alla rete consapevolmente e ciò che restituiamo inconsapevolmente, che cosa abilita un modello economico, per esempio i dati che noi consegniamo alle piattaforme senza saperlo, fondamentalmente in totale opacità, e invece tutta la parte che la rete storicamente ha saputo tirar fuori dalle persone consapevolmente, cioè i contenuti che noi pubblichiamo sapendo che cosa stiamo facendo. Ecco, ci sono molti piani un po' che si intersecano nel poi argomentare il ritorno a una gioiosa passività che nascerebbe da una fine dell'ossessione per la partecipazione, dovuta anche alle delusioni che questa eccessiva partecipazione avrebbe comportato, avrebbe determinato. Comunque, lettura interessante, mi piacerebbe anche sapere il vostro punto di vista. E intanto non so se si dice buon primo aprile, perché suona un po' beffardo, quindi mi fermo qua.